superiore a che cosa? Non si fa educare le persone. È invivibile comunque. Quando uno c'ha paura, è sempre spiato. Paura. Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore. Paura. Casino. Paura. È invivibile comunque. Trovo ad essere sempre spiato. Non si fa educare le persone. Tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo. Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor. Liberare tutti, vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci, senza perdere un'ora. È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno. Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte, sono le 15 e 3 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa e questa è La Conta, trasmissione contro il carcere. Il carcere è contro ogni altro strumento concentrazionario che rinchiude, che priva della libertà, come i CIE, come gli OPG, i manicomi e altre strutture che privano della libertà. Dunque, è proprio dagli OPG vogliamo partire, perché in questa fase, in questi mesi, probabilmente durerà ancora forse degli anni, e il passaggio dagli OPG, che secondo la legge devono essere diciamo smantellati per passare a un altro a un diverso, non ben specificato modo di curare, lo mettiamo tra virgolette, perché la cura psichiatrica non la riteniamo ovviamente una cura, ma non solo noi, la gran parte delle persone, perché in realtà la psichiatria è un controllo, non è una cura, perché non si cura il pensiero, le azioni delle persone sono dovute al rapporto che hanno queste persone con la loro vita, comunque e con quello che c'hanno intorno. Il problema, volevamo dirlo, perché è successo, c'è questo punto che adesso vi andiamo a leggere. Allora, quello che risulta qui, l'articolo che andiamo a sfogliare, così a scorrere, è del Corriere del Mezzogiorno, un giornale del Sud, che si riferisce è diffuso molto nell'area, in Campania, nel napoletano, ed è, si riferisce appunto all'OPG di Secondigliano. Ed in realtà, appunto, qui come altre situazioni che vedremo, ben lungi da essere svuotati, gli OPG hanno ancora una presenza di persone. Il titolo infatti di questo articolo è "Liberi ma ancora reclusi". Così gli OPG continuano ad essere un dramma. OPG, come abbiamo, chi segue questa trasmissione probabilmente sa bene di cosa parliamo, perché sono stati, abbiamo fatto dibattiti con esperti, con persone che hanno praticato contro voglia, cioè sono stati costretti a seguire queste cosiddette terapie psichiatriche, e quindi hanno subito dall'elettroshock e con vari controlli psichiatrici, insomma una situazione drammatica. L'ospedale psichiatrico giudiziario, che è il termine più pulito del manicomio criminale, come era risolto, era un luogo dove fino al 31 marzo scorso venivano rinchiuse le persone ritenute che avevano avuto dei problemi con la giustizia, però poi prescindere di come era andato il processo, assolti, colpevoli, oppure condannati per colpevolezza o altro, venivano dichiarati infermi di mente, ossia non abili a intendere e volere. Addirittura quando scattava questo marchio dato da, appunto, da alcuni medici psichiatrici, veniva interrotto il processo, quindi molte di queste persone non hanno manco concluso l'iter giudiziario, quindi non si sa se quel fatto per cui sono stati presi in consegna dalle forze dell'ordine, poi perché probabilmente hanno dato qualche segno di nervosismo, ma è difficile che uno quando viene arrestato sia col sorriso sulle labbra, no? Questo ve lo potete immaginare, credo che sia un fatto umano. Ebbene, appunto, sono stati portati presso uno psichiatra che l'ha dichiarato infermi di mente. Da quel punto vengono tirati fuori dall'iter giudiziario, cioè non più processati, quindi non si sa nemmeno se il fatto sono colpevoli o innocenti rispetto al fatto per il quale sono stati arrestati. Però vengono appunto internati negli OPG, che non viene ritenuto arresto, detenzione, ma un luogo di cura, tra virgolette, di cura però obbligatorio, nel senso che ci sono delle strutture, queste strutture sono strutture reclusive, nel senso in cui era impossibile uscire, e poi venivano praticate delle terapie obbligatoriamente, non volontariamente, non come in un ospedale dove uno può scegliere, che so, se per esempio deve subire una operazione chirurgica, si chiede il consenso della persona che deve essere sottoposta a questa operazione chirurgica, no? E quindi devi firmare anche addirittura una carta. Se devi prendere un farmaco, anche il medico ti chiede il consenso, mentre invece nell'OPG no, tutto è obbligatorio, tutto è violento, tutto è costrittivo, quindi chiaramente perfino il vito, il muoversi, tutto è più o meno come un carcere in cui la giornata è scandita dai ritmi carcerari. In più lì c'è anche lo psicofarmaco che ti viene imposto obbligatoriamente, cosa che in carcere per fortuna ancora non c'è. C'è tutta una serie di meccanismi che ti inducono a chiedere lo psicofarmaco, infatti sappiamo che in carcere ormai l'uso degli psicofarmaci sta superando la metà delle persone detenute, quindi è una cosa spaventosa. Praticamente questa tendenza farà diventare le carceri una sorta di manicomi. Il fatto è abbastanza tragicamente, purtroppo, questo fatto di diffondere in carcere gli psicofarmaci incontra pericolosamente gli interessi del carcere, delle guardie e quello dei detenuti, perché con lo psicofarmaco si dorme. Il detenuto spesso, quando non ha più nessuna speranza, nessuna voglia di stare dritto, no? di vivere, anche se in carcere, di ribellarsi, di essere se stesso, di trovare una via d'uscita, bene, a quel punto chiede lo psicofarmaco per dormire, così il tempo passa. Ovviamente, ma ancora di più l'interesse per detenuti, per le guardie, i secondini, per i direttori, eccetera, perché il detenuto che dorme chiaramente non crea problemi a loro, che sono i guardiani, e questa cosa provoca appunto la diffusione. Diciamo, appunto, l'OPG comunque è un posto dove ti rinchiudono. Il problema poi, poiché questa cosa, quando sono stati visitati da una commissione senatoriale, ha fatto indignare la gran parte della popolazione, perché poi le immagini di un bravo operatore sono state diffuse ovunque, quindi hanno fatto indignare la gente, e il governo immediatamente ha fatto un abbastanza in fretta, anche qui senza ragionare, senza mettere in piedi un dibattito serio tra la popolazione su che cos'è, se esiste la malattia psichiatrica, esiste la cura psichiatrica, oppure le infermità mentali, il disagio di vita, il malessere che più o meno a vari livelli abbiamo tutti, deve essere curato tra virgolette da una specialista che ti imbottisce di farmaci, o ancora di più usa l'elettroshock, cioè devastazioni mentali, ambientali, eccetera. E questo interrogativo non si è posto, si è fatta questa legge, chiudiamo questa vergogna, questi lager di OPG, e passiamo alle REMS, che poi più o meno era una cosa abbastanza simile, ossia si diceva cambiamo la struttura ma non discutiamo il meccanismo del controllo psichiatrico, della cosiddetta cura. E la cosa è rimasta abbastanza, tra l'altro ha avuto 3 rinvii questa chiusura perché le regioni non erano pronte. Il meccanismo in cui in questa follia, cioè quelli che fanno le leggi, e questo non riguarda soltanto i parlamentari, i funzionari dei partiti politici, ma questa sottocultura si è diffusa abbastanza ovunque. Qual è questa sottocultura che non ci permette di affrontare realmente i problemi laddove nascono? L'idea che hanno, un po' illuminista questa, no? Deriva dall'illuminismo, quando appunto si misero in piedi queste istituzioni che ancora esistono nei paesi cosiddetti moderni, cioè parlamenti, senato, commissioni, strutture da quelle municipali a quelle comunali a quelle, il fatto che utilizzando leggi e regolamenti si può modificare la vita delle persone. Questa è una follia, veramente. Questa è veramente una follia, perché non è così. Se una persona si comporta in un certo modo, ci sono delle cause, quasi sempre economiche, quasi sempre anche sociali, affettive, relazionali. Questi sono i problemi che comportano atteggiamenti o comportamenti che possono non piacere, o comunque che escono fuori dall'andamento cosiddetto comune. Quindi il problema sarebbe di vedere: abbiamo la capacità di allargare la cosiddetta normalità a tutti questi comportamenti oppure no? E secondo, ma anche se ci sono comportamenti che cozzano, che si scontrano con l'andamento di una società ordinata, devono essere repressi e violentati con le strutture meccaniche o chimiche, oppure si possono così affrontare all'interno di un colloquio per capire le cause e di fondo eventualmente rimuovere quelle? Ecco, il dibattito sarebbe dovuto essere questo. Non si è fatto, si è fatta questa legge molto raffazzonata, e l'unico elemento, appunto, con questa illusione di dire noi facciamo le leggi e quindi cambiamo l'ordine delle cose, e non è vero assolutamente, no? Se per esempio, se questa è l'idea con cui ancora sopravvivono le galere, no? Se si dice noi, cioè quel comportamento delle persone, per esempio, che so, rubare, noi alziamo le condanne e quindi la gente smetterà di rubare, non è assolutamente vero. Se la gente ruba non perché legge prima il codice penale, prima sono 6 mesi, poi sono diventati 1 anno, se anche diventeranno 10 anni. Se uno ruba, per esempio, i furti al patrimonio vengono da esigenze strutturali, fondamentali, spesso da difficoltà economiche, di mettere insieme, come si dice, il pranzo con la cena. Quando si occupa una casa è perché non si ha un tetto, e vivere con un tetto sulla testa è un'esigenza primaria dell'essere umano, ma anche quella di mangiare, di vestirsi. Quindi da qui viene eventualmente la riappropriazione, che la giustizia borghese chiama furto. Ecco, non certo dal cambiare le regole. Bene, comunque dicevo, quella follia, no, è un po' illuminista, ma anche molto demente, insomma, di quelli che pensano che con le leggi cambiano. Hanno fatto questa legge, hanno detto noi l'OPG era brutto, hanno pensato, perché comunque la sua gestione era del Ministero della Giustizia, quindi era una struttura simile al carcere, perché così come le carceri sono, diciamo, è un dipartimento del Ministero della Giustizia, lo erano anche gli OPG, un dipartimento del Ministero della Giustizia. Noi lo togliamo, lo scorporiamo dal Ministero della Giustizia, che tratta appunto diciamo i reati, i delinquenti, eccetera, e lo mettiamo sotto il Ministero della Sanità. Così diciamo affermiamo il principio che è una cura, non una reclusione. pensavano che con questa legge cambiava l'ordine delle cose, cioè cambiava il rapporto delle istituzioni nei confronti di queste persone. Ovviamente no, ovviamente no, non è questo che cambia. E poi hanno detto, mettiamo anche un limite della permanenza lì, in queste nuove OPG, queste REMS, che sono dei piccoli OPG, a livello regionale, quindi non più nazionale, a livello regionale, sotto il presidio della ASL regionale, gestiti dalla regione, e quindi dovrebbe cambiare. Ma non può cambiare automaticamente per mezzo di una legge o di un regolamento. Bisogna capire perché avvengono queste situazioni, per esempio evitare che vengano messi questi marchi alle persone che anche hanno dei comportamenti ritenuti non consoni, non consentiti, e quindi questo marchio che spesso rimane permanentemente. Comunque, infatti, il Corriere del Mezzogiorno del 14 giugno scorso dice, scusate la gola, gli ospedali psichiatrici giudiziari, quindi gli OPG, sono ancora un dramma. E quello di Secondogliano, penso che c'è stata la visita di un consigliere regionale uscente, insieme a ricercatori universitari, responsabili, insomma, hanno fatto questa visita e hanno visto che sono ancora presenti nell'OPG di Secondogliano 54 internati. E siamo alla metà di giugno, quindi dal 31 marzo devono essere votati, c'è stato aprile, maggio e due mesi e mezzo, e ancora non si vede la soluzione, cioè la possibilità di essere votati. Quindi hanno visitato questo OPG, hanno visto che tra l'altro ci sono hanno visto le persone, per esempio c'era questo, hanno subito visto un ragazzone di 36 anni che è arrivato nel 2005 all'OPG e doveva uscire perché appunto l'elemento legislativo che hanno messo nei confronti dell'OPG, nell'OPG ci potevi rimanere per sempre, anche se c'entravi perché, che ne so, per un furto, e infatti scattava il meccanismo del cosiddetto ergastolo bianco, gente che ci rimaneva a vita pur essendoci entrata per una stupidaggine. Ecco, hanno messo quindi un limite, il limite è dato dal massimo edittale del reato per cui si è stato fermato. E questo ragazzo ha superato, è stato dal 2005 è entrato, quindi sono passati 10 anni, e ha superato il massimo edittale, che c'è, cioè il massimo previsto dal codice per quella pena, lo scorso anno avrebbe, però non esce perché non è ancora uscito, e così tanti altri casi hanno visto di queste persone. Il fatto che non sia uscito, quindi, potrebbe, è perché c'è il meccanismo, un meccanismo diabolico, questo veramente diabolico, che pervade ancora il sistema della salute mentale e il sistema anche penale. Questa parola veramente è misteriosa, perché non ha niente né di scientifico, nemmeno di socialmente rilevante, è quella di pericolosità sociale. Con questa parola dall'OPG, se non risulti essere pericoloso socialmente, puoi uscire una volta superati appunto questa. Se non risulta, se invece ti viene affibbiato il marchio di pericoloso socialmente, non esci più, anche se sono superati, o comunque rimani lì sospeso, perché poi devono essere fatti degli accertamenti, cioè anche qui la legge non è stata formulata in maniera esatta, non è che tu esci obbligatoriamente, intanto perché ci vuole stabilire dove vai, chi ti accoglie, quale famiglia ti accoglie, o quale comunità o quale gruppo di persone. Non puoi essere preso e buttato in mezzo a una strada. E insomma, hanno visitato, quindi, in questi 54 internati, ogni caso era un caso particolare su cui sarebbe da fare delle discussioni, perché non dovevano stare, molti erano dimissibili, cioè persone che potevano essere dimesse però non avevano un posto dove andare, cioè un disastro della Madonna. Perché questo disastro? Perché appunto, intanto, con quella ideologia perversa di pensare che facendo una legge si cambia l'ordine delle cose, è un po' un sentirsi Dio in terra. Queste persone veramente hanno dei problemi grossi, io dico i legislatori, i funzionari delle istituzioni di questo paese, ma penso anche di altri, pensano che appunto governando la legge e i regolamenti si possa riplasmare la società e gli uomini e le donne che vi sono dentro. Non è assolutamente vero, è un'imbecillità, è un assurdo, un'illusione, questa è veramente un'illusione. Difatti questi casi lo dimostrano. perché per esempio dire le persone che stanno nella PG devono essere messe fuori, quelle che non sono più dichiarate socialmente pericolose, ed è tutto ovvio e anche auspicabile, ma dove li mettiamo si devono almeno porre il secondo punto. E siccome sia per la lunghezza di presenza nell'OPG sia per altri motivi molte di queste persone non hanno più una famiglia, men che meno hanno una famiglia in grado di riaccoglierli, è chiaro che andavano fatte delle comunità predisposte, delle comunità, dei luoghi dove potevano essere, dove potevano andare a riconoscere l'esterno, la vita reale. Quindi anche spendendo dei soldi, e d'altronde senza soldi è difficile fare delle cose in una società come questa che vede la merce al centro e quindi anche i soldi di ogni iniziativa. Questa viene l'assurdità, come vedete, no? E poi sempre, pensate, ne parla pure la Repubblica di questo fatto, oltre che il giornale, oltre che il Corriere del Mezzogiorno, che è specifico di Napoli e del Sud, perché il fatto è grave, cioè si è visto che appunto nell'OPG di Secondigliano non solo c'era questa presenza, ma si sono verificati dei fatti gravi. Da lì si sono accorti che qualcosa non c'era. Intanto questo OPG doveva essere vuoto, e però le cronache hanno parlato di una cella incendiata. In una cella incendiata ci deve essere qualcuno dentro, e quindi si è sparsa la voce. Da lì qualche consigliere regionale è andato a visitare, cioè, e dalla presenza di molti atti di autolesionismo, quindi c'erano persone dentro, e è venuto fuori dopo la visita che 54 persone ancora sono rinchiuse lì. Vabbè, qualcuno dice non perché non hanno fatto le REMS in Campania, certo, perché anche qui le regioni non hanno soldi, ma poi non si sa esattamente che dovrebbero essere queste REMS, è molto contorta, è molto approssimata la legge e il regolamento che dovrebbe regolamentare queste REMS. Insomma, è ancora per aria, la situazione sta molto per aria. La cosa è gravissima. Allora, questo dice, ho visto una delle 18 celle distrutte e chiusa da domenica scorsa, ho domandato il motivo, ma ci hanno soltanto informato di un ricoverato che aveva tentato di darsi fuoco. Alla nostra richiesta di vedere il registro degli eventi critici, la risposta è stata che non c'era il personale per andare a prendere il registro, cioè un po' ridicolo, potevano trovare una scusa migliore, no? Una cosa di enorme gravità della quale gli daremo conto sia alle autorità preposte. Comunque, ancora, quindi a chi ha visitato l'OPG di Secondigliano, tornano in queste immagini e in queste sezioni un'opacità e una reticenza che ci spaventano. Altro che cambiamento dell'OPG, rimane fondamentale la struttura che ha caratterizzato l'OPG, cioè quel luogo dove una volta entrato dentro vieni coperto da un velo di mistero, non si è mai saputo niente, ancor più delle carceri, degli OPG. Se voi nelle carceri sono state rivolte, se ne è parlato, c'entravano i parlamentari, insomma un po' se ne è parlato male, stravolgendo tutto, però se ne è parlato. Degli OPG non se ne è mai parlato, se non quando questa beati popolazione italiana ha visto un documentario in cui un intelligente e coraggioso operatore aveva messo in luce, quando appunto la commissione senatoriale è andata a visitare alcuni OPG, tra cui Barcellona Pozzo di Gotto vicino Messina, e ha fatto vedere delle scene raccapriccianti, e lì si sono tutti indignati. Ma quelle OPG con quelle scene c'era tutti i giorni da 50 anni a quella prima e ancora prima, però si sono indignati solo quando l'hanno visto in televisione. Il dramma è questo: se la gente non vede in televisione le porcherie che il loro la loro passività contribuisce a far esistere, perché così non si indigna. E guardate che è vero, quello che succede in carcere, quello che succede negli OPG, quello che succede in questa vergogna che per fortuna è sotto gli occhi delle telecamere, però non non produce quello che si sarebbe aspettato, cioè quella vergogna di quelle persone, esseri umani, che sballottati tra il governo italiano e quello francese sugli scogli di Ventimiglia vengono buttati di qua e di là come fossero una palla, un pallone, no? Calciati da una parte all'altra perché nessuno li vuole accogliere, con una violenza e una come dire, non ci sono termini, schifezza, miseria. Questa è la vera mafia che caratterizza le istituzioni, non tanto il rubare. Rubare si fa del male alla società, ma se ne si fa un male sicuramente, ma si fa più male quando si fanno queste scene qua, quando si fa appunto l'OPG, il carcere e il dramma dell'immigrazione. Quella è la vera mafia radicata nelle istituzioni e forse anche in mezzo a noi. E allora 15:31, allora passiamo ad un altro argomento, anche se per continuare a parlare di OPG sarebbe fondamentale. Tra l'altro ricordiamo che data questa carenza assurda, pazzesca, criminale delle istituzioni su questo terreno, così come su tanti altri, abbiamo detto il carcere, l'immigrazione eccetera, vabbè, in realtà che cosa sta succedendo? Che per appunto fare qualcosa, non essere schiacciati dall'immobilismo come sta avvenendo in questo paese, gruppi, non tantissimi ma sicuramente una rete di compagni e compagne sparsi in tutta Italia, che appunto criticano il controllo psichiatrico e le strutture, queste strutture che lo rappresentano, lo manifestano, però cercando di andare oltre le strutture, non chiedere un cambiamento delle strutture da OPG a REMS oppure migliorare le REMS, ma proprio mettere sotto critica e abolire il controllo psichiatrico, così come sarebbe da abolire appunto il controllo penale, ma lo vediamo in quell'altro settore. Perché? Perché poi in realtà appunto non si fa altro che passare da una struttura all'altra senza mettere in conto che cosa? Non quella struttura, quella legge, quel regolamento, ma che cosa provoca agli esseri umani buttati in quell'inferno. Questo è il problema, cioè bisogna ribaltare il modo di ragionare. Se si vuole parlare di una fabbrica, di un quartiere, di un carcere, di un manicomio, di una CIE, eccetera, bisogna mettersi dalla parte di chi subisce, di chi sta dentro, di chi sta lottando per sopravvivere in situazioni molto difficili. Non tanto della non si può appunto modificare l'atteggiamento nei confronti di queste strutture se si vedono le leggi, i regolamenti e cose di questo tipo. E difatti questa cosa la vediamo anche nel carcere. Perché? Perché il problema del carcere, abbiamo visto, no? Ne abbiamo parlato tanto, l'abbiamo seguito settimana per settimana, perché questa trasmissione è settimanale, ma praticamente con una puntualità, se volete, esasperata. Ma questa avrebbe dovuto, crediamo, che abbia permesso a tutti coloro che hanno ascoltato questa trasmissione, a noi stessi che l'abbiamo seguita, di vedere quant'è assurdo, proprio pazzesco, il modo di non affrontare dal punto di vista esatto, cioè dal punto di vista di chi soffre la struttura, in quel caso il carcere, quando si è scatenata a partire dal 2011 così il dibattito sul sovraffollamento. Poi è intervenuta la Corte Europea, la multa, la sanzione, la tirata d'orecchie, i provvedimenti svuota carcere eccetera eccetera, tutto questo balletto che è vero che hanno ridotto il sovraffollamento dai 70.000 presenze, che era veramente un record italiano degli ultimi 70 anni, è stato portato a 55.000 presenze attualmente in carcere. Ma non è cambiata sostanzialmente, perché anche tutto quel dibattito si è parlato di metri, come se fosse una questione geometrica, matematica, aritmetica, la sofferenza della galera. Si è detto: ah no, tre metri, hanno 3 metri ciascuno, è poco, bisogna portarli a 4, a 5, a 6, chi diceva 8, a 9, bisogna fare i passeggi più grandi, più lunghi, più grossi. Ora, queste cose sicuramente contano, hanno a che vedere con la sofferenza che il carcere impone a chi viene recluso, però non sono fondamentali. E difatti tutto questo dibattito, ne sono uscite centinaia di articoli, servizi televisivi, hanno evitato di parlare della condizione materiale, umana, di coloro che in carcere ci stanno. Da lì bisognava partire, non ridurre la sofferenza del carcere a un problema di metri o di centimetri o di pareti bianche oppure grigie. Il problema è centrale, è il fatto della devastazione che quell'ambiente provoca, così come l'OPG, e vedere tutto il contorno che provoca, perché una persona finirà a carcere, perché viola una certa legge. E allora bisogna analizzare perché delle persone sono costrette dalla vita che fanno, oppure vogliono violare quella legge, e ponendosi quel problema, è chiaro che è un problema non giudiziario ma politico, ed è ovvio che il carcere è un fatto politico, non è un fatto giudiziario, così come l'OPG, così come il CIE, così come tutto quanto, così come l'immigrazione, sono tutti problemi politici, che vuol dire gestione della società, gestione della polis, per cui sono problemi politici che poi vengono buttati sul terreno giudiziario o penale o addirittura diciamo psichiatrico, perché non si vuole affrontare il problema. E allora dicevamo la riduzione fatta sotto la pressione europea della presenza in carcere da 70.000 a 55.000 ha fatto anche in Europa hanno detto va bene, brava Italia, gli hanno dato il buffettino, però cerca di non riaumentare le presenze in carcere, perché noi siamo qui stiamo vigilando, però brava che ha fatto. Ed ha avuto anche il ministro Orlando ha avuto anche qualcuno gli ha detto bravo, hai fatto un bel lavoro, noi ti abbiamo detto di ridurre il sovraffollamento e tu l'hai fatto, bravissimo, così si fa. E in realtà però vediamo i dati mettendosi sempre dal punto di vista di chi il carcere lo subisce, cioè chi ci sta dentro e tutto il contorno di familiari, amici che soffrono insieme al detenuto la detenzione o alla detenuta ovviamente. E allora rispetto a quello non sono cambiati granché. Primo, perché per esempio i suicidi in carcere sono ancora molto elevati e quindi il suicidio è la punta dell'iceberg che dimostra l'insopportabilità di quella situazione della detenzione. Gli atti di autolesionismo sono tantissimi e che altrettanto rappresentano la non accettabilità. Il fatto che sul piano generale il sovraffollamento è più o meno diminuito di molto, anche se non è cessato, però è stato fatto anche qui a macchia di leopardo, nel senso che ci stanno sui 200.000 istituti penitenziari, carceri in Italia più o meno ce ne stanno 200, su 200 carceri una cinquantina stanno ancora a un buon livello di sovraffollamento con problemi, quindi perché non è stato fatto? E non può essere, non è come cioè non è che qui si ragiona come se come ragionano gli amministratori delegati delle aziende. Bisogna mettere, c'hai un'azienda con vari settori, spostiamo queste risorse da questo settore a quest'altro settore perché il mercato si è spostato e quindi chiede più frigoriferi invece che lavatrici, o il contrario, non ha importanza. Ecco, questo è il gioco che fanno quelle persone ritenute intelligenti, ma che intelligenti non sono, che vanno appresso alle richieste, agli andamenti del mercato, modificando le risorse finanziarie e anche umane nei vari settori di produzione. Quello lo fanno appunto gli amministratori delegati delle società che pensano di fare appunto di gestire non le persone che poi quella produzione fanno, infatti va a finire sulle loro spalle, ma a gestire appunto la produzione di merci, ed è quella la nefandezza di questa società. Peggio ancora quando si parla di carcere, manicomi eccetera, vediamo, dice vabbè, se è diminuito il sovraffollamento, ma dove? In alcune carceri è diminuito, in tre quarti degli istituti penitenziari è diminuito il sovraffollamento, si è arrivati a situazioni quasi normali, ma in oltre 50, si parla di 55, 56, 60 istituti penitenziari, ancora il sovraffollamento è molto forte, che crea quindi disagio, che è un disagio in più, non è il vero disagio, che abbiamo detto è qualcosa di diverso dal sovraffollamento, è l'assenza della vita, della libertà. Bene, questa cosa quindi non ha prodotto una riflessione adeguata, però appunto il rappresentante dell'Unione Europea ha fatto i complimenti al governo italiano perché aveva in poco tempo fatto scendere le presenze in carcere da 70.000 a 55.000, quindi aveva diminuito, perché a loro interessano i dati generali, il sovraffollamento è diminuito, non che cosa succede agli uomini e alle donne che stanno là dentro. Questo è il modo assurdo, cioè questi sono istituzioni non umane, questo è il problema, non hanno un rapporto con l'elemento umano che sta dentro ogni struttura, nel carcere, negli OPG, nell'ospedale, nell'immigrazione, nella fabbrica, nel territorio, non gli interessa, loro fanno come quando fanno un piano regolatore, no? Non gli interessa della vita delle persone, gli interessa di fare la bella opera che poi va a prendere il premio. Ecco, questa assurdità noi bisogna spazzarla via, altrimenti non facciamo un passo avanti, altrimenti sprofondiamo nella barbarie più nera. E questo era l'altro elemento che volevamo raccontare, perché così è successo che appunto c'è stata questa, così come dire, questo elogio da parte della di un esponente della Commissione Europea, perché l'Italia in pochissimo tempo ha ridotto il sovraffollamento, quindi l'ha detto quasi come come dire, come invito agli altri paesi, perché un po' tutte le carceri europee stanno messi male più o meno come noi, non è che brillano, e quindi, come ha detto, fate anche voi come ha fatto l'Italia, però soltanto per mettersi il fiore all'occhiello e dire ho fatto diminuire la presenza in carcere da tot a tot in tutta Europa, quindi vedi come sono bravo. Non si è posto il problema di capire come stanno le persone là dentro, e questo fatto in generale continua a esserci. Per esempio, andiamo a Genova, al carcere di Marassi, un vecchio carcere, uno dei più dei peggiori, eccetera eccetera, per tanti motivi, per esempio uno di quelli dove avvengono spesso pestaggi molto pesanti, molto forti, molto massacranti. Tra i tanti, ogni tanto qualcuno di questi pestaggi diventa assurge agli onori delle cronache, così come si dice, no? Nel senso che i detenuti, se hanno un buon diciamo amici, familiari eccetera, fanno la denuncia, questa denuncia sfonda il muro di silenzio omertoso della stampa e quindi vanno a finire sulla strada. Ed è così è successo, c'è stato un pestaggio a Marassi, uno dei tanti, e uno di questi è diventato un fatto perché hanno denunciato le guardie che hanno fatto della squadretta che fanno il pestaggio eccetera. Bene, è venuto fuori, quindi l'inchiesta è dovuta andare avanti, perché deve andare avanti quando queste cose vengono poste sul tappeto, ma non è tanto il problema che condanneranno questo o quello, perché sappiamo che queste cose non arrivano mai alla soluzione, ma quella cosa che sta venendo fuori ed è importante. Allora, delle guardie accusate da quello che aveva preso le botte dal detenuto come uno dei principali soggetti della squadretta del pestaggio, è venuto fuori che era una persona che aveva 8 anni prima del pestaggio era stato arrestato per una sparatoria, cioè era una persona più volte coinvolta in atti di malavita, di sparatoria eccetera, e poi era finita a fare il secondino, questa come si ha, però quindi era stato arrestato, denunciato, incarcerato per una sparatoria, poi è uscito, era entrato, non sappiamo come, questo non ce lo dice qui l'inchiesta, come era entrato tra gli agenti di polizia penitenziaria. Non solo, anche il medico del carcere è stato accusato perché ha fatto un'omissione, cioè non ha denunciato il carcere, perché quando il detenuto si è presentato davanti al medico e ha segnalato i segni delle botte che aveva preso, il medico avrebbe dovuto fare una relazione e denunciare e fare un esposto di questa persona, ho visto una persona massacrata di botte, e quindi far partire. No, non l'ha fatto questa cosa, e quindi è stato denunciato, adesso è indagato per omissione di questa relazione che dovrebbe fare. Il medico si chiama Marilena Zaccardi, pensate un po', ed è lì è venuto fuori chi è questa persona. Non è che piove da Marte, è una persona già condannata per le torture nella caserma Diaz durante il G8 del 2001, era stata già incriminata e poi anche condannata perché aveva preso parte a quella pagina nera, una delle tante, non è l'unica, però che insomma è venuta fuori con eclatanza, anche perché tra i manifestanti che manifestarono durante il G8 del luglio del 2001, molti di questi non erano italiani, addirittura qualcuno era figlio di giornalista o comunque persone, erano ragazzi europei, e quindi è venuto fuori uno scandalo abbastanza grosso, più grosso negli altri paesi, che in Italia si è molto messo sotto il tappeto, insomma, no? Come la polvere sporca. Però insomma questa persona, questa dottoressa, era stata incriminata e poi condannata per le torture nella caserma Diaz, perché quelle torture sono state, e poi l'ha detto pure l'Europa, cioè. Poi improvvisamente diventa medico del carcere di Marassi. Insomma, questo carcere di Marassi, da questa inchiesta a seguito di un pestaggio, sta venendo fuori come il coacervo di persone, cioè non mi piace usare questa parola, no? Però tutte persone che insomma pregiudicate, questo è il termine che usa la legge, cioè persone già condannate, delinquenti, criminali, come volete chiamarli. E insomma va bene, non, cioè, va male, non è questo il problema, non è questo, non è che bisogna trovare le persone immacolate per fare una cosa, ma questo per dire che evidentemente non avevano, non è tanto importante quello che hai fatto prima, è importante capire se hai cambiato. Ora queste persone, questi due, uno dei picchiatori che era stato arrestato per una sparatoria e faceva il secondino, l'altro, il medico che faceva, che era stato condannato per le torture alla Diaz, insomma la situazione, e pare che continuassero a fare la stessa cosa, perché il medico copriva i pestaggi, il pestatore pestava quanto aveva pestato a suo tempo, addirittura che faceva il coatto, girava intimorendo negli scontri tra malavita. Quindi questa è la realtà delle carceri italiane, per cui quando i signori nei giornali da altre parti parlano di legalità dovrebbero stare un po' attenti, oppure quando mettono il marchio di delinquente, bisogna colpire la delinquenza, bisogna colpire la criminalità. Ora non voglio dire, ma soltanto dalla cronaca che sta sotto gli occhi di tutti, insomma, quanta ce n'è di criminalità, di delinquenza nelle istituzioni? Questo caso di Marassi è poco conosciuto, gli altri casi più eclatanti come Mafia Capitale, altre, oppure la vicenda di Ventimiglia, sta sulle pagine, sugli schermi televisivi, insomma, che vuol dire? Vuol dire che il termine delinquenza, criminalità non è un termine che ci permette di dividere la società tra buoni e cattivi, ma ci dovrebbe obbligare di mettere il naso più dentro i meccanismi di questa società, perché lì dentro stanno il motore di queste vicende, non da qualche altra parte, non perché esistano i buoni e esistono i cattivi, ma perché i meccanismi economici, la merce, i soldi, la carriera, l'arricchimento, il potere, lo sfruttamento stanno dentro un meccanismo che è marcio, è assai marcio, e che va ribaltato abbastanza, ma in maniera sostanziale, e quindi insomma il problema è soltanto darci da fare. so hard. Oh, I'm trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Allora, 15:52-53 adesso. Intanto vogliamo ricordarvi che giovedì prossimo, qui dopodomani, giovedì 18, alle ore 18 appunto, avrà luogo dentro l'università alle Tre Serrande occupato si trova all'interno della città universitaria tra le facoltà di farmacologia e medicina legale, quindi la trovate facilmente, insomma, no? Tra la facoltà di farmacologia da una parte e medicina legale dall'altra. Si chiama Tre Serrande Occupate, poi ci sono anche dei segnali. Ci sarà un'iniziativa delle trasmissioni del mercoledì. Che sono la mattina c'è Sapienza Clandestina, come sapete, adesso c'è La Conta, e verso alle 20 e alle 8 e un quarto c'è Il Nome delle Cose. E queste tre trasmissioni hanno organizzato questa festa per la sottoscrizione a favore di Radio Onda Rossa, che sapete c'ha tante spese per mantenere una radio come questa, e non è che i soldi cascano dal cielo, men che meno vengono dalle istituzioni, anche perché Radio Onda Rossa ha sempre evitato un rapporto, diciamo, di carattere di sovvenzioni con le istituzioni, perché poi una cosa ti danno, un'altra cosa ti tolgono, soprattutto ti tolgono la libertà di dire quel che vuoi. Allora, appunto, ricordiamo, il Suoni si chiama Suoni e Voci dalla Strada. Dalle 18 appunto ci sarà un aperitivo musicale con i DJ di Radio Onda Rossa, poi ci sarà l'orchestra Filo e Armonici di San Lorenzo, e poi a seguire una braciolata e a sostegno di Radio Onda Rossa. E quindi il posto è le Tre Serrande Occupate all'interno della città universitaria, che si trova il posto in fondo verso Via Lergina Elena, insomma, dall'altra parte, diciamo, di Piazza Aldo Moro, tra le facoltà di farmacologia e medicina legale. E allora siamo quasi in chiusura. Volevamo ricordarvi di utilizzare questi ultimi minuto e mezzo per soffermarci un attimo sull'importanza di diciamo intraprendere una corrispondenza con chi sta in carcere. Uno può, potete scegliere un detenuto giovane, uno di tanti anni, non è importante. L'importante è scrivere, perché la corrispondenza è l'unica forma di comunicazione che scavalca le mura. Ancora oggi è quella. È anche quella di quando si va sotto un carcere, le grida, la musica che si può sparare da un presidio, insomma, sotto un carcere. Però mentre questa seconda è più rara, perché bisogna organizzarla, insomma, ci vuole un po' di gente, perché andare lì in poche persone non va bene. Mentre invece la corrispondenza si può mandare ogni giorno, cartoline, lettere, in carcere. È una cosa importante, serve sia a chi sta dentro che a chi sta fuori. Perché? Perché permette appunto a chi sta fuori di conoscere il carcere, ma in maniera diversa da quella da come si conosce, per esempio, leggendo i giornali. Perché appunto l'ho detto mille volte, ormai mi ripeto veramente, che nei giornali il carcere non viene raccontato così come è. Vengono raccontati alcuni aspetti, spesso marginali, non fondamentali, e quindi non permettono a chi legge di capire cosa è il carcere. Ci si sofferma a cose o affermazioni pietistiche, c'è bisogno di